Era quasi estate, quasi troppo tempo fa. L'affitto era un biglietto d'autostrada. E vada come vada, devi andare a modo mio. Era sotto carica la macchina della musica. Quasi estate, quasi.